Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ci sono calciatori, bravi calciatori, calciatori bravissimi, fuori classe, campioni, e poi ci sono i simboli, quelli che vengono definiti bandiere. E in genere questi simboli sono calciatori che hanno giocato praticamente tutta la carriera nella stessa squadra. Paolo Maldini al Milan, Del Piero alla Juve, Totti alla Roma, Zanetti all'Inter e tutto sommato anche Maradona per il Napoli, anche se ha giocato in altre squadre. Oggi raccontiamo la storia di un uomo che prima di tutto è stato un tifoso da bambino e che ha giocato in tante squadre, eppure verrà accostato a imperitura memoria soprattutto alla Lazio, alla curva nord dello Stadio Olimpico. È un uomo che è stato giudicato sul campo in modi diversi, è un saliscendi costante, cattivo, poi come esempio mondiale di fair play. È un uomo che non ha mai nascosto le sue idee, che ha subito anche conseguenze per le sue idee. Insomma, oggi raccontiamo la storia di Paolo Di Canio. Questa è la voce dei tifosi della Lazio che inneggiano al loro campione. E pensate che Di Canio in 22 anni di carriera, in fondo la Lazio ha giocato solo 5 stagioni, ha fatto grandi esperienze in squadre italiane, ma soprattutto in Scozia e in Inghilterra. Però le ragioni di questo affetto, di questo grande amore tra Di Canio e la Lazio, probabilmente partono dalle origini, dalla sua infanzia, perché Di Canio, prima di essere un calciatore, è stato un ultra. E lo dice lui, queste sono le sue parole: sono nato a Roma il 9 luglio 1968, cresciuto a Quarticciolo, un quartiere dove la maggior parte degli abitanti è tifosa della Roma, ma io sono sempre stato innamorato della Lazio. Mio padre mi portava la domenica allo stadio, sempre in curva, a gridare, a soffrire per le sconfitte, a gioire per ogni vittoria, sognando di riuscire un giorno a calpestare quel prato. E come spesso accade quando si ha una fissazione forte nella propria adolescenza, si fa fatica a pensare a altro, quindi il nostro protagonista ha poco interesse per la scuola, mentre riesce a farsi rispettare dagli amici appena compare un pallone. Lo chiamano pallocchetta, piccola pallina, perché all'inizio è un po' cicciottello, ma poi quando scende in campo per la Protevere e comincia a scartare tutti, qualcuno lo nota, lo segnala alle persone giuste, così entra nelle giovanili della sua Lazio. Il suo sogno ha inizio. E lui a 16 anni nel campionato 86-87 viene mandato a farsi le ossa in provincia, come spesso accadeva in quegli anni, e lo mandano a Terni, Ternana, ma lì ritrova come compagno di squadra un certo Vincenzo D'Amico, uno degli eroi della Lazio di Maestrelli e di Chinaglia, quello che ha vinto lo scudetto nel 74, e sembra già tutto scritto. Lui frequentava gli Irriducibili, che è l'ala più estrema degli ultra laziali, un gruppo diciamo anche votato pesantemente verso la destra radicale. Forse anche questo contribuisce alla formazione di Paolo Di Canio, che si porta determinate convinzioni nel cuore per tutta la sua carriera. L'anno trascorso a Terni è importante non solo dal punto di vista calcistico, perché lui a Terni conosce Elisabetta, che diventerà sua moglie. La Lazio nell'87 torna dalla B alla A, lo riportano a casa, lui comincia a allenarsi con la prima squadra sotto lo sguardo di Giuseppe Materazzi, l'allenatore, peraltro il padre di Marco Materazzi. In quella stagione lui farà un gol solo, però è un gol particolare, un gol che i tifosi si ricordano ancora oggi, perché è il gol con il quale il 15 gennaio 1989 la Lazio vince il derby. Oggi Lazio-Roma non vuol dire scudetto e non vuol dire neanche salvezza. Conti alla mano, anche se Bruno parte in panchina a passeggiare per il campo c'è Renato, una sfida che solamente i biancazzurri affrontano con la giusta mentalità. La Roma non mostra di se stessa una ben precisa identità e la Lazio bastano 25 minuti per andare in vantaggio al termine di un'azione iniziata da Cerbis, perfezionata da Rubén Sosa e conclusa dal migliore in campo, Di Canio. E non dimentichiamo che la Lazio è una neopromossa, la Roma è uno squadrone, ci sono Nela, Conti, Giannini, Föller, Rizzitelli, ma come spesso accade i derby sfuggono a ogni pronostico. Immaginate cos'è la sensazione di segnare il primo gol in Serie A, se poi ti capita di farlo nel derby Lazio-Roma mentre giochi con la Lazio, rischi veramente di perdere la testa. Quel gol, la curva sud, quella romanista se lo ricorda, perché Paolo Di Canio, dopo aver segnato, salta i cartelloni pubblicitari e va a esultare sotto la curva romanista. Non si sa se per la enfasi, per la confusione del momento, o se lo fa veramente apposta. È la prima comunque di una serie di provocazioni, o comunque così viene interpretata, gesti che fanno capire che Di Canio non è un semplice giocatore, è uno che si butta nella mischia col vigore che ha sempre avuto. Insomma, la Lazio lui se la porta nel cuore, il resto non conta. Il falco e il gabbiano. Ma si sa, una legge del calcio sempre più applicata è quella che trasforma i calciatori e gli allenatori in nomadi, si comincia a cambiare squadra. 1990, Di Canio va a Torino dalla vecchia signora alla Juve con Gigi Maifredi, non avrà fortuna. Non Di Canio, il modulo è di Maifredi. L'anno successivo arriva Trapattoni e il rapporto è di quelli destinati a essere difficili, perché Trapattoni è un duro vecchio stampo, Di Canio è un duro anche lui, si dice che i due arrivino quasi alle mani, hanno due caratteri opposti e una concezione del calcio diversa. Alla Juve Di Canio vince la Coppa UEFA, il suo primo trofeo importante, ma nel 93 è tempo di fare le valigie. Va a Napoli, è in prestito per un anno. Qui sicuramente uno come Di Canio potrebbe diventare un idolo, però c'è un altro allenatore che sicuramente, insomma, non può apprezzare il suo estro, è un allenatore che si chiama Marcello Lippi. Comunque lui vive una stagione esaltante, fa un gol memorabile al Milan di Baresi, Maldini e di Panucci, qualche soddisfazione se la toglie. Il lancio a cercare Di Canio, che scatta bene Di Canio, entra in rigore inseguito da Panucci, Di Canio una serie di finte, va verso il fondo, ancora Di Canio, non trova compagni di squadra a cui appoggiare, poi si rete! Di Canio! Un gol incredibile che ricordo, perché Di Canio fa fuori tutta la difesa milanista, forse proprio per quello il Milan lo acquista alla fine dell'anno. Ma anche lì c'è panchina, perché Di Canio è un giocatore particolare e ha davanti a sé un altro allenatore assolutamente particolare, Fabio Capello, e costretto in panchina sfoga a parole la sua adrenalina. Eravamo in tournée in Oriente e finalmente speravo di giocare qualche partita come titolare. Ma anche lì Capello mi disse che sarei rimasto negli spogliatoi e allora io lo mandai a quel paese. Lui fece lo stesso e solo l'intervento di qualche giocatore evitò che ci prendessimo a pugni. Questo diverbio convince Di Canio, così lui scrive nella sua autobiografia, che bisogna guardarsi in giro, e Di Canio secondo me è uno al quale l'Italia va stretta, perché è uno che vive il calcio in una maniera completamente diversa, e la sua destinazione è in questo momento la Scozia, la squadra, il leggendario Celtic Glasgow. Questi sono posti che vanno bene per uno come lui, e infatti lui conquista subito i tifosi scozzesi a suon di gol, di assist, diventa un leader, un trascinatore. Lui ricambia l'ospitalità mostrando un attaccamento per la maglia e per il popolo scozzese, gente che ha dei principi che evidentemente lui riconosce come somiglianti. Quando per esempio viene eletto miglior giocatore del campionato, lui si presenta a ritirare il premio indossando il kilt, la gonna scozzese. È un gesto che lo rende un idolo agli occhi dei tifosi. Ma la Scozia è un paese perfetto a livello di mentalità, però produce un calcio dove ci sono due squadre, il Celtic e il Rangers, insomma si può salire di grado, e allora si va in Premier League. In Inghilterra la squadra è lo Sheffield, siamo nel 98, e però accade subito un colpo d'ala che potrebbe essere negativo per la carriera di Canio. 26 settembre si gioca contro l'Arsenal, c'è un fallo di gioco, c'è una rissa in campo, l'arbitro Paul Alcock estrae un cartellino rosso per Di Canio. L'arbitro è un po' un arbitro alla vecchia maniera, è un po' cicciottello, non è un colosso alla Rosetti, per capirci. Lui, l'arbitro, lo spinge, gli dà una spintarella, ma l'altro cade in modo goffo, perde l'equilibrio, e i commentatori si scandalizzano, anche se sembrano un po' divertiti per quella caduta. Però la squalifica è inevitabile, esemplare, 11 giornate di squalifica, e la stampa intitola Shame, vergogna, e gli affibbia l'etichetta di bad boy, cattivo ragazzo. In Inghilterra il calcio è vissuto in modo diverso rispetto all'Italia, non si passano settimane a giudicare i rigori che ci sono o non ci sono, movimenti di mercato, insomma viene vissuto in maniera, come dire, più maschia, più franca, più leale. Però quando si tratta di raccontare i comportamenti dei giocatori ci sono i famigerati tabloid, che in qualche modo stanno sempre addosso ai personaggi pubblici. L'abbiamo già raccontato nelle storie di Cantona, di Best, soprattutto di Fasciano, un uomo forse ucciso anche dai tabloid. Dopo la spinta di Di Canio all'arbitro, lui viene etichettato come un cattivo nel calcio, un giocatore che non può dare l'esempio, eccetera, eccetera. Insomma, parte un'ondata un po' di perbenismo nei confronti del nostro protagonista. Ma come si cade in basso, si risorge, e lui è uno che se ne intende di risalite. 18 dicembre 2000, Paolo Di Canio si è trasferito a Londra, gioca nel West Ham e sta vivendo un momento di grande forma, comincia a fare gol e giocate spettacolari, uno famosissimo con una sforbiciata, è rimasto tra i gol più belli della storia della Premier League. Si sta giocando a Liverpool con l'Everton, il risultato è 1-1. Il portiere dell'Everton, Gerrard, esce alla sua sinistra per intercettare una palla vagante, mette male il piede, rimane a terra. Il giocatore del West Ham, che ha superato il portiere, scodella la palla in centro. Insomma, è quasi gol perché il portiere è per terra fuori dall'area da una parte, Paolo Di Canio al centro, ha la palla e deve solo spingerla in rete. E lui cosa fa? Prende la palla al volo con le mani, si ferma e indica all'arbitro il portiere a terra, ferma il gioco. Il pubblico all'inizio non capisce, poi esplode in una ovazione per il gesto di fair play di Paolo Di Canio, e tutto viene resettato perché in Inghilterra queste cose sono apprezzate. In Italia lo avrebbero criticato perché, ma come potevi segnare, che ti frega, in Inghilterra non funziona così, e il bad boy diventa improvvisamente l'eroe da prendere a esempio. La notizia fa il giro del mondo, Di Canio viene inserito nella Hall of Fame del West Ham, riceve una lettera di encomio dalla FIFA firmata da Blatter, che allora insomma era un personaggio che poteva lanciare encomi. Comunque il leone di Quarticciolo è di nuovo in cima al mondo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di uno dei campioni più controversi degli ultimi anni di calcio. Stiamo raccontando la storia di Paolo Di Canio, che ha fatto parlare di sé per delle grandi giocate, perché ricordiamoci che stiamo parlando di un calciatore di primissima fascia, che ha giocato alla grande, che ha fatto grandi gol, assist, quindi stiamo parlando sicuramente di un campione, ma stiamo parlando anche di un uomo che ha avuto comportamenti che hanno diviso, che hanno scatenato inimicizie o grande ammirazione da parte dei tifosi. Abbiamo raccontato il luogo dove tutto ha avuto inizio, la mitica curva nord, mitica quanto la sud, per carità, è la curva dello Stadio Olimpico, dove Paolo Di Canio ha frequentato fin da bambino un ambiente probabilmente politicizzato e indirizzato a destra. È un ambiente dove lui ha imparato a farsi rispettare, a difendere le sue idee. Lo abbiamo visto andare a gioire sotto curve avversarie, lo abbiamo visto prendere a spintoni un arbitro, ma anche conquistare un premio fair play della FIFA per essere stato un giocatore che a gol quasi fatto ha fermato la palla per far curare un avversario. E adesso c'è l'occasione, dopo gli anni gloriosi trascorsi in Inghilterra, anni nei quali ha lasciato ricordi indelebili, c'è l'occasione per tornare là dove tutto aveva avuto inizio: Roma, Curva Nord. Ancora emozionato da quello che è accaduto questa mattina, per me si avvera un sogno, e alla mia età, insomma, di solito si dice è difficile emozionarsi, invece quello che è successo oggi è qualcosa di meraviglioso per me. E qui nasce un rapporto molto controverso, amore e odio. Lotito e Di Canio legano comunque i loro destini. Lotito lo vuole a tutti i costi perché è conscio che Di Canio non è solo un grande giocatore, è la bandiera, e la Lazio in quel momento ha bisogno di quelle. Però c'è un allenatore che si chiama Domenico Caso che forse sopporta male la leadership palese di Di Canio. Insomma, ci sono tanti casi di allenatori che vengono scavalcati dai loro giocatori e che in qualche modo forse soffrono di questa situazione. Insomma, tra Caso e Di Canio si arriva a un vero e proprio scontro verbale e qualcuno dice addirittura anche fisico, ma non sappiamo se è vero. Non sei in grado di allenare, non hai le basi per poterlo fare. Ma è come uomo che non vali nulla, perché non hai le palle di affrontarmi e di guardarmi dritto negli occhi come faccio io. E questo è un virgolettato di Canio, sono parole dure che lui rivolge al suo allenatore, insomma è un'altra frattura definitiva. Tutto però viene risolto perché la squadra non sta andando bene, Caso viene esonerato, arriva Giuseppe Papadopoulo che invece è un grande estimatore di Canio. Così lui comincia a allenarsi con impegno ed è pronto al rientro nella partita più importante, che ancora una volta è il derby. 16 anni dopo quel gol tanto discusso e festeggiato sotto la curva romanista. Ma a volte la storia si ripete. Bella palla di Livrani per Di Canio. È il 6 gennaio 2005, sono 4 anni che la Lazio non vince un derby, è il 28esimo del primo tempo e Liverani lancia un pallone da centrocampo che arriva al dischetto del rigore. Di Canio si libera di Mexes, calcia al volo, segna sotto la curva sud, quella della tifoseria della Roma, insomma fa rivivere gli stessi incubi ai giallorossi, gli incubi che erano già stati si erano già palesati 16 anni prima. E questa volta l'Aquila ha la meglio sulla lupa, è un grandissimo tiro al volo fatto da un 36enne che riesce ancora a stupire il suo pubblico come è riuscito a fare soprattutto in Scozia e in Inghilterra. Qui si respira un'aria diversa, però Roma, è la città nella quale un derby è un evento epocale, e insomma fare un gol alla Roma sotto la curva sud è uno schiaffo che solo un ultra può dare. L'ho rivisto fino alle 6 di mattina, subito rubata la cassetta a Laura Zaccheo che c'ha la cassetta quella dell'Olimpica, io ho assolato subito, ma sorpresa fino alle 6 di mattina perché non dormo normalmente dopo le partite, dopo questa, ma la sono rivista 3 volte, piano piano rimandavo indietro, avanti, indietro. E vedevo i volti della gente, volevo vedere anche soprattutto le cose particolari, l'inquadratura della tribuna, della curva, cioè la gente proprio come emozionava, più che il gol che però mo sono rivisto perché sarei imbugiato, proprio vedere la gente come esultava, capito? Quella era la gioia mia. L'attaccamento alla gente, al suo popolo, al popolo della curva, lui lo ha dimostrato anche in altre occasioni e spesso ne ha pagato le conseguenze in prima persona. abbiamo già parlato, insomma, di una certa connotazione politica di molte curve, e tra queste anche la curva della Lazio. E così nel campionato 2004-2005 Di Canio saluta la sua curva dopo un gol fatto contro la Juventus, e il braccio viene interpretato come braccio un po' troppo teso, insomma si parla di saluto romano, e la squalifica scatta di conseguenza. Eh sì, perché in Italia c'è una legge del 20 giugno 52 che sanziona chiunque voglia ricostituire il partito fascista, ma anche chi, dice la legge, esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo. E ovviamente la questione diventa di interpretazione difficilissima, perché non è vietato avere idee politiche di destra, ma è vietato esaltare determinati principi, fatti o metodi. Insomma, quindi qui la casistica si complica, e ci sono parole che lui stesso ha riportato nella sua autobiografia. Io sono di destra, destra sociale per l'esattezza. Ma al contrario di quello che può pensare la gente schiava di una comunicazione corrotta e inquinata, non vado in giro con il bastone a picchiare gente di colore. La mia idea di destra si rifà al fascismo del ventennio. Di quel periodo ci sono dei valori in cui credo profondamente, anche se sono cosciente che siano stati commessi degli errori importanti. Quando Paolo Di Canio segna il suo gol nel derby del 2005 a 36 anni, insomma è tempo di smettere, e così il calcio perde un altro grande protagonista. E lui vuole allontanarsi dalle polemiche, da una stampa italiana che lo ha sempre bersagliato, che è sempre stata acida nei suoi confronti. Così torna in Inghilterra, va a allenare lo Swindon Town in la categoria, la Major 2, che corrisponde alla nostra C2, un modo per riprendere fiato, per staccarsi da un mondo del quale lui sembra essersi un po' stancato. Eppure anche lì la stampa britannica torna sull'argomento. I can't keep going talking about my life and my family, the value that my parents are giving to me, because they, the people that talking about in this way, they don't offend Paolo Di Canio. I don't accept that they offended my parents. I don't give the chance to anyone to offend my parents and to put in difficulty my daughter. So that's once forever. I want to talk about only football. If you want to talk about football, okay. Otherwise, we give time to the others to ask me something about my club, my new club. E beh, la domanda era chiara. Paolo, sei un fascista? E la risposta è, per le rime, è precisa. Non ho più voglia di parlare di queste cose. Chi offende me offende i miei genitori, che mi hanno insegnato dei valori precisi. Voglio solo parlare di calcio. E lui si dimostra bravo, così come lo era stato a dribblare i difensori, anche a dribblare domande tendenziose come quelle che gli hanno fatto quella volta. Ma le polemiche non finiscono qui, perché Di Canio, dopo aver allenato ancora in Inghilterra, torna in Italia e diventa, questo è quasi oggettivo da dire, il miglior commentatore televisivo di fatti di calcio inglese, perché lui sulla Premier è uno che se ne intende veramente. Ha una sua trasmissione su Sky, una trasmissione veramente interessante, ed è un numero uno. Però viene tradito da un collegamento in un periodo ancora estivo, nel quale esibisce una maglietta con le maniche corte, o meglio, esibisce un tatuaggio, uno dei tanti tatuaggi che lui ha. Qualcuno legge la scritta Dux, parte una polemica, secondo me sterile, perché sul fatto che Di Canio, insomma, non fosse di sinistra, era una cosa che tutti sapevano. Però evidentemente, insomma, l'Italia, che è un paese buonista per benista, in questo caso si scaglia contro Paolo Di Canio, e Sky decide di allontanarlo dagli schermi. Insomma, ancora una volta uno che paga per le sue idee, se volete discutibili, ma è che comunque paga per un tatuaggio, e Sky rimane senza il migliore esperto di calcio inglese. Insomma, una vita di salite e discese. Il Falco e il Gabbiano, forse in questo caso sarebbe meglio dire l'Aquila dato che l'Aquila è il simbolo della squadra indissolubilmente legata al nostro protagonista, una persona che ha saputo districarsi, cadere e risalire, e secondo me è una persona della quale sentiremo parlare ancora. E noi vi aspettiamo con altre storie. Se voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, seguitemi, interagite con me sul sito o venite sui miei, sui nostri social, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Pipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.